Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ho studiato tanto, questo ti devo dire la verità, poi non mi cadete che se uno studia tanto diventa ministro dell'istruzione, però nel mio caso c'è questo rapporto tra è un po' la sezione della scuola. Questo anche se era un audio un po' particolare, perché era dentro un convegno la ministra Giannini, e era la ministra Stefania Giannini che a un convegno del PD sulla scuola intitolato La scuola che cambia, cambia l'Italia, ha detto praticamente rispondendo a un bambino come si fa a diventare ministro, perché insomma i bambini sì, ultimamente sono piuttosto interessati, diciamo, alla carica di politico, di ministro, nelle istituzioni politiche, ha detto bisogna essere una secchiona, io ero una secchiona. E poi c'era anche l'ex ministro Berlinguer, presente anche lui, ministro, era stato ministro dell'istruzione, che ha detto a scuola non bisogna spallarsi, diciamo che anche magari con altri temi, però condividiamo effettivamente, lui dice bisogna godere per imparare naturalmente, mi sembra una cosa piuttosto di buon senso quantomeno. Vedremo stasera di che tenore sono le varie notizie, sono tantissime, iniziamo come sempre con molti fatti anche questa settimana. Fra le altre cose parleremo anche della lite dentro la Lega, finora abbiamo parlato sempre dei dissidi, delle tensioni negli altri partiti, da Forza Italia al PD al Nuovo Centrodestra, adesso anche la Lega comincia a avere qualche tensione, ne parleremo, dovremo riuscire a raggiungere più tardi il sindaco di Verona Flavio Tosi, che ultimamente sembra non vada molto d'accordo col segretario Salvini, ma ci faremo dire direttamente da lui insomma qual è la posta in gioco. Vi ricordo per i vostri interventi, se volete intervenire su questo dissidio interno alla Lega o su altri argomenti stasera con Effetto Notte, ci sono le solite due possibilità: o la pagina stessa su Facebook di Effetto Notte, oppure gli sms, i messaggi, quindi al 349 238 6666. Naturalmente parleremo anche della Grecia, sembrava che l'accordo fosse lì lì, la lista doveva presentarla delle sue riforme a momenti e invece slitta domani. Torneremo a parlare degli Oscar, anche potete dire se condividete i premi, ci sono stati previsioni che sono state poi concretizzate, delusi, scontenti, anche dimenticati. Ma cominciamo con il riepilogo della giornata. La lotta all'evasione fiscale, firmato lo storico accordo tra Italia e Svizzera, cade il segreto bancario ma per alcuni c'è lo sconto. Grecia, Atene prende tempo, slitta domani l'invio a Bruxelles della lista delle riforme per prolungare il piano di salvataggio. Processo Eternit e scontro tra la Cassazione, che deposita le motivazioni per l'annullamento delle condanne a Smidaini, e il procuratore Guariniello, che chiede un nuovo processo. Tensione nella Lega Nord, Matteo Maroni e Salvini chiedono a Tosi di non mettere in difficoltà Zaia in vista delle regionali. La Apple diventa green, ecologica, insomma, maxi investimento da 1,7 miliardi per due data center in Europa alimentati ad energie rinnovabili. E poi il calcio, questa sera si giocano due anticipi di Serie A, si gioca a Napoli e a Cagliari. E partiamo quindi da questo storico accordo tra l'Italia e la Svizzera, accordo in materia fiscale per lottare contro l'evasione fiscale. Il ministro Piercarlo Padoan ha anche annunciato la firma il prossimo giovedì di un analogo accordo con Liechtenstein. Un passo avanti molto importante, frutto di un lavoro complesso e difficile, dice il ministro Piercarlo Padoan. Superate le divergenze degli anni passati, gli fa eco la collega svizzera Widner Schumpf. Italia e Svizzera hanno sottoscritto questo pomeriggio in prefettura Milano il nuovo protocollo sulle doppie imposizioni fiscali, che chiude per sempre l'era del segreto bancario a prova di bomba. Da domani l'Agenzia delle Entrate potrà inviare a Berna liste anche di gruppo su presunti evasori fiscali, con l'obbligo per la Confederazione di rispondere per le vie brevi. Due le domande: che cosa guadagna la Svizzera per la cessione di questo asset storico? Quali sono i benefici per i contribuenti italiani inseguiti dal fisco? Sul primo versante, la Confederazione è stata in sostanza obbligata dal nuovo contesto di trasparenza internazionale guidato dagli Stati Uniti, dal G20 e dall'OCSE, anticipando l'entrata in vigore nel 2017 dello scambio automatico di informazioni fiscali. Da oggi la Confederazione diventa per l'Italia un paese white list, mentre per i contribuenti italiani che aderiranno al rimpatrio dei capitali, c'è tempo fino al 30 settembre prossimo, vedranno calare la prescrizione fiscale sui ricchi depositi costituiti tra il 2005 e il 2009. Per questa annualità la sanatoria è davvero conveniente, si paga circa il 7% sul capitale, mentre per gli anni post 2010, tra tasse, sanzioni e interessi, se ne va più dell'80% del capitale evaso. L'intesa tra Roma e Berna ha invece rimesso a un futuro accordo politico le altre questioni bilaterali, dalla tassazione dei lavoratori frontalieri allo status di campione d'Italia, fino all'importantissimo libero accesso al mercato italiano per le banche svizzere. Alessandro Galimberti, Radio 24, Sole 24 Ore. E poi alla Grecia vi dicevo che era attesa questa sera la lista che il governo greco doveva inviare a Bruxelles con tutte le riforme che Atene intende fare per ottenere la proroga degli aiuti europei, però è notizia appunto di questa sera, di non molto, molti minuti fa, che è slittato a domani questa presentazione di questo piano. Tra poco però cercheremo di capire che cosa ci sia in gioco, perché di questo slittamento, quali potrebbero essere queste eventuali riforme. Adesso rimaniamo ancora all'estero e parliamo di Libia. Rischia di compromettere i già difficili tentativi di mediazione dell'ONU la decisione del governo libico di Tobruk di cancellare tutti i contratti con le aziende turche e rivedere quelli con le altre compagnie straniere. L'esecutivo, riconosciuto dalla comunità internazionale e guidato dal premier Altani, non ha fornito spiegazioni ufficiali, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che la sua sia una rappresaglia nei confronti della Turchia, accusata di sostenere, assieme al Qatar, le milizie filo-islamiche che dalla scorsa estate governano a Tripoli e in parte del paese. Il Parlamento di Tobruk in parallelo ha deciso di sospendere la partecipazione ai negoziati con cui le Nazioni Unite stanno cercando di mediare fra i due governi libici nel tentativo di arrivare alla formazione di un esecutivo di unità nazionale in grado di fronteggiare l'avanzata dell'ISIS. Il presidente egiziano Al-Sisi intanto oggi ha fatto sapere che sono stati 13 gli obiettivi dell'ISIS colpiti nei raid da aerei condotti dall'aviazione del Cairo in territorio libico dopo l'uccisione dei 21 lavoratori egiziani copti decapitati dai miliziani del califfato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso torniamo in Italia col processo Eternit. La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditore svizzero della Eternit, Stefan Schmidaini. L'accusa è di omicidio volontario aggravato per la morte da amianto tra il 1989 e il 2014 di 258 persone. Lo ha reso noto il PM Guariniello commentando, perché questa era la notizia di oggi, le motivazioni della sentenza di prescrizione della Cassazione. Oggi erano state depositate queste motivazioni, secondo la quale la Corte di Cassazione, con sentenza con cui il 19 novembre ha fatto definitivamente cadere le accuse per l'imprenditore svizzero, aveva detto tutto era già prescritto in realtà da anni e per questo sono cancellati anche i risarcimenti, scrivono i giudici in queste motivazioni. E Guariniello invece è intervenuto dicendo appunto che ci sarà, che chiede un nuovo processo. Parleremo anche di questo con il presidente del Comitato delle Famiglie delle Vittime. Ora siamo alla politica, vi dicevo, vi annunciavo già prima questa lite nella Lega. La Lega litiga sulle candidature in Veneto. Il segretario Matteo Salvini ricandida Luca Zaia alla guida della regione della Serenissima, ma il sindaco di Verona Flavio Tosi incalza. Si propone come candidato di prendere anche l'elettorato moderato. Interviene il governatore della Lombardia Roberto Maroni. Stimo Tosi, gli sono amico, ma non si può mettere contro Zaia. Sarebbe un errore gravissimo che ci farebbe perdere la regione. Salvini poi accusa apertamente Tosi di voler boicottare Zaia. Se ci sono litigi, dice il segretario, si facciano nelle sedi opportune, poi si trovi l'accordo e si vada a vincere. E Salvini chiede che Tosi partecipi alla manifestazione di sabato a Roma contro il governo Renzi. Non è bello da un dirigente pagato. Il sindaco di Verona però non si scompone, spiega che con Salvini ci sono delle distanze e quanto alla manifestazione di Roma Tosi replica: la mia presenza dipenderà dai miei impegni da sindaco. Non sono pagato dalla Lega, il mio unico stipendio è quello di sindaco. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra poco, come vi dicevo, dovremmo raggiungere il sindaco della Lega Flavio Tosi. Ci sono però un po' di maretta, diciamo, anche in Piemonte. Il presidente della regione Piemonte Sergio Chiamparino è intervenuto alla direzione regionale del PD piemontese sulla vicenda delle presunte firme false a suo sostegno. Ha commentato: se il 9 luglio intorno a quella data non ci sarà una sentenza chiara e inequivocabile, sono pronto a restituire la parola agli elettori. Vi ricordate, già era successo in passato con l'allora governatore della Lega che aveva battuto la candidata e ex presidente della regione Mercedes Bresso del PD, e poi adesso sembra che ricapiti qualcosa, insomma, di non molto chiaro in Piemonte. Staremo a vedere. Intanto sul Jobs Act continuano le critiche al governo. L'esecutivo ha sbagliato a non tener conto del parere delle commissioni lavoro di Camera e Senato sui licenziamenti collettivi, così dice un deputato interno al PD, il capogruppo alla Camera, Roberto Speranza. Deve essere a tutti chiaro che se viene meno la necessaria sintonia tra il Parlamento e il governo non si va da nessuna parte. E questo è solo l'ultimo dei commenti da parte di esponenti del PD, ma anche di esponenti delle opposizioni contro l'atteggiamento del governo a proposito del Jobs Act. La segretaria, per quanto riguarda i sindacati, la segretaria generale della CISL, Anna Maria Furlana, ha detto a Porta a Porta, che viene in onda questa sera, sui licenziamenti collettivi: c'è stato un intervento a gamba tesa che non ci aspettavamo e non va bene. Finora i licenziamenti sono stati gestiti all'interno degli accordi con le imprese e ora sarà il buon senso delle parti a dover recuperare gli strafalcioni del governo. E poi c'è la leader della CGIL, Susanna Camusso, che ammette: sull'articolo 18 c'è stata una sconfitta, così ha detto a Sky TG24, però aggiunge: alle sconfitte si reagisce, non è che come qualcuno pensa, essendo stati sconfitti si torna a casa, noi continueremo e troveremo gli strumenti necessari per tutelare la libertà dei lavoratori. Tra l'altro vedevo anche una agenzia di questi istanti che riguarda Landini, il leader della FIOM, che dice: c'è un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, un Premier che non è stato eletto e che cancella lo Statuto dei Lavoratori va avanti a colpi di fiducia. Per la prima maggioranza in Parlamento ha deciso di difendere solo una parte, la Confindustria, e a rischio la tenuta democratica del Paese, così dice Maurizio Landini a 8:30 poco fa. Questa è la sua dichiarazione piuttosto dura. Parliamo adesso del risarcimento per ingiusta detenzione a Vittorio Emanuele di Savoia, ma come lui in realtà sono tanti a finire in carcere per errore e poi a batter cassa lo Stato, come ricostruisce una nostra inchiesta. Ora lo Stato deve risarcire anche il re, ma come lui sono migliaia i cittadini finiti in carcere ingiustamente e poi doverosamente almeno ricompensati. La Repubblica Italiana deve pagare 40.000 euro a Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia, per quei 7 giorni passati in cella nel 2006, quando l'allora PM di Potenza Harry Woodcock gli contestò di tutto. Accuse cadute una dietro l'altra nel corso degli anni e ora, dopo le assoluzioni, arrivano pure i soldi per l'ingiusta detenzione. Se il caso di errore giudiziario più famoso è quello di Enzo Tortora, sono migliaia gli ex detenuti che chiedono risarcimenti allo Stato. Nel 2010, secondo un'inchiesta di Storiacce di Radio 24, erano pari agli abitanti di un piccolo paese, 2.639, a quanto avevamo ricostruito in assenza di statistiche esatte. In vetta Napoli, ultima Campobasso. Se a Reggio Calabria erano state 114 le persone risarcite, 54 a Palermo, a Milano su 115 richiedenti il risarcimento era stato accordato a 46 persone, a Bologna invece al 43% di quanti avevano fatto domanda, sempre comunque troppi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso di nuovo all'estero, con il nuovo numero di Charlie Hebdo, è il secondo numero dopo l'attentato sanguinoso, vi ricordate, del 7 gennaio scorso. Sarà in edicola da mercoledì in 2,5 milioni di copie. Sulla copertina è raffigurato un cane che scappa con una copia del settimanale in bocca, e a inseguirlo ci sono delle caricature tra l'umano e il bestiale, il canino, di Nicolas Sarkozy, di Marine Le Pen, di Papa Francesco, e c'è uno jihadista rappresentato con un grosso lupo nero con un Kalashnikov in bocca. Quindi esce il secondo numero di Charlie Hebdo. Anche una notizia di tecnologia, diciamo così: Apple diventa green, diventa ecologica. Il gigante di Cupertino annuncia un piano per una costruzione e la messa in funzione nel 2017 di due strutture alimentate al 100% da fonti rinnovabili. Saranno impianti da 166.000 metri quadri in Irlanda e Danimarca. Per il cinema parleremo più tardi degli Oscar, tra previsioni che si sono realizzate, delusi e dimenticati, anche ci sono stati dimenticati, con relative polemiche. E in chiusura il calcio con il nostro Giovanni Capuano. Giovanni, con i posticipi, noi anticipi, mi corregge un ascoltatore, Alessandra, ogni tanto mi posso confondere anch'io, non è vero Giovanni? Ciao. Sì, ma è facile confondersi, perché questa è una giornata di Serie A spalmata su 5 giorni e ancora non basteranno, perché poi resterà Parma Udinese, che chissà se e quando verrà recuperata, ma lì il discorso è diverso perché dipende dalle condizioni economiche del Parma, quindi è facile confondersi. Questi sono i posticipi, ma anche l'anticipo, perché domani sera ad esempio si gioca il derby di Genova e quindi questa è una giornata infinita. Beh, se vuoi assegnare gli Oscar, intanto il primo Oscar lo diamo al Napoli questa sera, perché pochi minuti fa ha chiuso la sua fatica contro il Sassuolo, ha vinto 2-0, ha sofferto per un'oretta, poi hanno segnato Duvan Zapata e Hamsik, tutto nell'arco di una decina di minuti. Napoli, che è alla terza vittoria casalinga consecutiva, riscatta il KO di Palermo e soprattutto va a 3 lunghezze dalla Roma e dal secondo posto, che vuol dire accesso diretto alla Champions League. E quindi, visto che molto probabilmente da lunedì sera non avremo più un campionato di vetta, lunedì sera c'è Roma-Juventus, la Roma ha 9 punti di svantaggio sulla Juventus, e quindi diciamo che la corsa per per lo scudetto pare indirizzata, ci consoliamo perché abbiamo una bella sfida almeno alle spalle dei bianconeri. In campo invece da 16 minuti c'è l'Inter, quindi questa è la gara numero 8 del programma della 24esima giornata, risultato ancora fermo sullo 0-0, è una partita piacevole, su ritmi alti, non ci sono state grosse occasioni. Con chi Giovanni? Cagliari-Inter. Ah, ecco, Cagliari-Inter, gioca Cagliari, è una partita importante per entrambe, il Cagliari è terz'ultimo, ha bisogno disperato di punti per uscire dalla zona caldissima. Ti segnalo che nell'Inter ci sono delle scelte sorprendenti di Mancini, che tiene fuori Shaqiri, che è il giocatore in questo momento più in forma dei nerazzurri, gioca Kovacic, fuori anche Ranocchia, gioca Vidic, ma ricordiamoci che l'Inter giovedì sarà chiamata alla gara di ritorno contro il Celtic Glasgow in Europa League, l'andata in Scozia è finita 3-3, quindi qualificazione ancora tutta da giocare, ci sono delle priorità evidentemente anche negli obiettivi stagionali. 17esimo, 0-0 a Cagliari, tra Cagliari e Inter. Grazie Giovanni Capuano, poi ci aggiornerai tra poco, più tardi insomma, su come proseguirà l'andamento della partita. Voi continuate a mandare i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte su vari temi questa sera, anche in particolare per esempio nella lite tra Salvini e Tosi, se vogliamo parlare di schieramenti calcistici, da che parte state, con l'indipendente Tosi o con Salvini che lo richiama all'ordine e dice tu devi stare omogeneo alla Lega, sia partecipando alla manifestazione di sabato, sia non mettendo i bastoni in mezzo alle ruote con la possibile rielezione di Zaia in Veneto. Cosa ne pensate? A tra poco, aggiornamenti per chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci presto presto insieme e adesso parleremo in particolare di Grecia. Ci doveva essere questa sera la lista delle riforme che doveva presentare a Bruxelles, invece ha preso ancora un pochino di tempo. Io mi prendo un pochino di tempo anche per riaggiornarvi. Qualcuno dice queste notizie sempre le ho già sentite, sì, ma non tutti stanno attenti nello stesso modo, oppure non tutti accendono la radio nello stesso momento. Quindi vi riepilogo le notizie più importanti. È stato firmato oggi l'accordo storico tra Italia e Svizzera, stop al segreto bancario. Renzi dice in questo modo rientreranno miliardi in Italia. Slitta il piano greco, come dicevamo prima, ne parleremo tra pochissimo. Processo Eternit, la procura chiede un nuovo processo per Smidaini, ma la Cassazione oggi ha depositato le motivazioni dell'annullamento della sentenza per Smidaini dicendo che il caso era prescritto. Agli Oscar la spunta il film Birdman e poi statuetta anche per l'italiana Canonero per i costumi, delusione per Boyhood. Landini dice un partito no, non lo faccio, ma la Fioma più iscritti del PD, e intanto Sele e la sinistra democratica aprono. Landini tra l'altro ha avuto un faccia a faccia oggi con la segretaria della CGIL Camusso. Lite nella Lega sul Veneto, anche Maroni contro Tosi, e voi dite come la pensate su questi opposti schieramenti tra Salvini e Tosi. E poi nuove minacce dell'ISIS all'Italia, allarme per possibili lupi solitari nel nostro paese, poi la svolta di Apple che diventa, si dice, green, ecologica, insomma, con un maxi investimento da 1,7 miliardi per due data center in Europa alimentate a energie rinnovabili. Ed eccoci quindi a parlare di Grecia, che più o meno tutti i giorni nei nostri pensieri ci doveva essere questo imminente accordo tra Unione Europea e Grecia per il prolungamento del piano di aiuti, del piano di salvataggio, e però in cambio cosa doveva fare la Grecia? Doveva portare entro stasera una lista, o inviare una lista a Bruxelles dicendo quali sono le riforme che faranno, per dire che si mettono insomma sulla retta via. Però hanno preso un po' di tempo e la cosa è slittata domani. Sergio Nava ci dirà, ciao Sergio, ciao, il perché, ma soprattutto quali sono le riforme che ha in mente Atene. Ma ufficialmente diciamo non c'è stata alcuna comunicazione da parte del governo greco sul perché ha rinviato a domani mattina. Ha bisogno un po' più di tempo. È ovvio che quello sta succedendo in questi tre giorni, perché la decisione di estendere i 4 mesi sub giudice il piano di aiuti alla Grecia è stata presa venerdì sera, quindi da sabato è partita una trattativa fittissima tra Atene e Bruxelles sulle misure, sui numeri, tra Atene e Bruxelles, ma anche tra Atene e l'ex Troica, perché ora non la chiamano più Troica ma istituzione. Quindi è chiaro che il governo Tsipras è in grande difficoltà, deve dettagliare delle riforme, deve cercare di pareggiare le riforme cosiddette sociali, come un innalzamento del salario minimo, come anche l'elettricità gratis per i poveri, insomma, poi la reintegrazione anche dei dipendenti pubblici, no? Quanto riuscirà a fare è difficile, perché veramente la camicia è veramente stretta. Forza e stretta. È chiaro che si sta cercando di, almeno Atene sta cercando di salvare quelle riforme sociali forse più imprescindibili, recuperando denaro con lotta all'evasione, lotta alla frode fiscale, forse anche una patrimoniale per i greci più ricchi, tipo gli armatori che finora non hanno pagato mai tasse, tipo loro, no? È ma una molti cosa incredibile altri anche, questa. Insomma, l'evasione fiscale noi siamo anche maestri noi italiani, quindi potremmo dare lezioni ai greci, anche la riforma della giustizia civile, i tagli alla burocrazia, insomma queste sono. Sai, una cosa che mi ha incuriosito è anche la lotta al contrabbando di benzina e sigarette. È possibile che vengano tanti soldi da questa? Ma addirittura secondo la Bild Zeitung, che è il tabloid più importante di Germania, che ha, insomma, con i greci anche un conto arretrato, perché poi venerdì gli ha rivelato questo cambiamento nella lettera che Tsipras aveva scritto, poi Varoufakis a quanto pare aveva cambiato successivamente il ministro delle finanze. La Bild stima 800 milioni dal contrasto al contrabbando delle sigarette, di benzina 1,5 miliardi di euro. Insomma. Contrabbando fiorente. E chiaramente queste poi sono cifre, rivelazioni stampa tedesca tra l'altro, indiscrezioni, quindi sì. Però effettivamente sono numeri che stupiscono e ci raccontano un'economia sommersa che farebbe paura se avesse veramente questa portata. È chiaro, altro aspetto importante, anche le contestazioni che stanno arrivando dalla sinistra interna a Tsipras, perché perché Syriza, il partito di Alexis Tsipras, ha una sinistra interna forte, più decisa di lui, e quindi infatti già iniziano i dissidi, già iniziano i dissidi, perché chiaramente in qualche modo, diciamolo pure, venerdì sera Tsipras e Varoufakis hanno dovuto un po' abbassare la testa a Bruxelles, e infatti abbiamo l'eurodeputato di Syriza Manolis Glezos che ha parlato di vergogna, ha chiesto scusa ai greci, abbiamo poi un gigante della cultura come Mikis Theodorakis che ha espresso il suo disagio proprio relativamente a queste... a questo chinare la testa. È chiaro che alla fine, dopo il giro delle capitali di Varoufakis e anche di Tsipras, dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane in sede di Eurogruppo, in sede di vertice europeo, eccetera, la Grecia si è resa conto, probabilmente il governo Tsipras si è reso conto del prezzo che avrebbe pagato se avesse continuato sulla linea molto dura, quindi si sta cercando di mediare, di salvare la faccia, tenere alcune riforme sociali, non tutte, e come dire, annullarle con altre misure, però anche qui corruzione e evasione fiscale, abbiamo parlato molto anche in Italia, noi si possono fare stime, ma non sono settori dove stimare qualcosa poi corrisponde a un'effettiva entrata, certo. Quindi bisogna stare poi molto attenti, se punteranno molto su questo il rischio è che domani i ministri di finanza dell'Eurogruppo in teleconferenza domani pomeriggio le dicano sì, ma non siamo certi di questi introiti, questi numeri non sono nero su bianco. Mi pare anche Padoan, oggi il ministro dell'economia ha parlato di Grecia, oggi sì, Padoan alla presentazione del libro del direttore del Sole 24 Ore Napoletano, Viaggio in Italia, ha toccato anche il tema Grecia, sentiamo anche questo passaggio dall'intervista con Giovanni Minoli. Quello che è stato deciso con la Grecia, se si legge con attenzione un documento abbastanza astruso, è che si è costruito un sentiero lungo il quale si può aumentare la fiducia reciproca, torno al punto di prima, e questo si accresce prendendo impegni, rispettandoli da tutte le parti, che poi non sono due. Certo. L'Eurogruppo ha 19 membri, sì, adesso, quindi ci devono essere 19 paesi, ci devono essere non 19 ma molti parlamenti nazionali, compreso quello tedesco, compreso quello finlandese, che devono approvare la richiesta della Grecia di estensione del programma per 4 mesi. In Italia questo non è richiesto, ma in altri paesi sì. Quindi ci si dimentica un altro fatto, che l'Europa è anche confronto fra parlamenti che sono sovrani. Questo non vuol dire che un parlamento abbia più ragione di un altro, vuol dire che bisogna trovare una soluzione comune. E questo era Padoan, quindi nuova puntata domani sulla Grecia, ennesima, Sergio. Capiremo domani mattina arriva il piano greco, almeno dovrebbe arrivare, poi ci sarà una valutazione tecnica e poi, come dicevo, ministri delle finanze dell'Eurogruppo in teleconferenza per il sì o per il no, oppure dateci ancora maggiori dettagli, perché il 28 febbraio il programma di aiuti finisce. Grazie Sergio Nava. Grazie. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24 notte. E rimaniamo sui greci. I greci non sono affatto euroscettici, questo lo dice Dimitri Deliolanes, che è corrispondente da Roma della ormai defunta TV pubblica greca, autore del libro La sfida di Atene, Alexis Tsipras contro l'Europa dell'austerità. Valentina Forlanetto gli ha chiesto se i parlamentari europei greci hanno autorità nel paese. I parlamentari europei greci, insieme con quelli ciprioti, lavorano tantissimo, sono tra i primi in presenze nelle commissioni, danno battaglie durissime, perché sappiamo che la Grecia ha dei problemi, per cui deve darsi da fare al Parlamento europeo per far passare, per convincere gli altri delle sue posizioni. No, contano tanto. Il Parlamento europeo sappiamo che ha dei poteri limitati, purtroppo decidono ancora i governi dei paesi, il Consiglio europeo. Sarebbe molto molto democratico dare maggiori poteri al Parlamento europeo e fare in modo che anche i parlamentari assenteisti, quelli che se ne interessano di meno, abbiano, diciamo così, lo stimolo e l'opportunità di fare politica dentro il Parlamento europeo. Secondo te l'euroscetticismo greco dipende dalla crisi economica oppure, diciamo così, è endemico, un po' come accade per i paesi del nord Europa? Guarda che in Grecia non c'è euroscetticismo, c'è il popolo greco, la stragrande maggioranza è filoeuropeo, noi ci sentiamo europei, noi siamo europei, pochissimi tra i greci vorrebbero uscire, non ti dico dall'Unione Europea ma neanche dall'Eurozona. Infatti la vittoria anche di Tsipras di Siriza è perché ha voluto coniugare una diversa politica economica con continuare a essere membri dell'Unione Europea e dell'Eurozona. C'è anche la questione migranti, che è molto importante, no? Più della metà dei profughi che scappano dai focolai di guerra nel Medio Oriente entra in Europa attraverso il confine della Grecia con la Turchia. Ovviamente tutta questa gente non vuole stare in Grecia perché sanno che è un paese povero, impoverito, insomma non è in grado di dare la minima assistenza come invece dovrebbe secondo le convenzioni internazionali, e quindi vogliono proseguire il viaggio per arrivare al nord Europa, come d'altronde anche a quelli che arrivano in Italia, solo che non ci riescono perché c'è l'Adriatico di mezzo, per cui rimangono bloccati in Grecia, e quindi la Grecia si trasforma, insomma, un pochettino in un campo di concentramento a suo malgrado di tutte queste persone alle quali di fatto non è in grado di dare assistenza. È un problema veramente tragico, di difficilissima soluzione, perché poi si chiede alla Germania, la Germania dice guarda che io ho una percentuale di richiedenti asilo molto superiore a voi due, alla Grecia e all'Italia messi insieme, e ha ragione. Lo stesso si può dire per la Svezia, lo stesso si può dire per la Danimarca. È un problema di difficilissima soluzione, però sicuramente non può andare avanti così, bisogna fare qualche cosa, bisogna che ci sia un'iniziativa europea nel gestire questa difficile, non solo il problema dell'ondata dei profughi, ma anche i nostri rapporti con i paesi vicini, con la costa sud del Mediterraneo. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso voltiamo pagina, di Grecia abbiamo parlato a sufficienza, parleremo di politica tra poco, dovremo raggiungere il sindaco di Verona della Lega Veneta Tosi, che è un po' in disaccordo ultimamente con Salvini. Intanto vi ringrazio Roberto per il suo messaggio e poi anche Carlo. Poi c'è Ugo da Milano che dice: Vittorio Emanuele, faccia un bel gesto, dia quei 40.000 euro a chi ha bisogno. Un altro dice: Toti, tutti insieme per battere Pinocchio Renzi contro l'Italia dei comunisti, burocrati e giudici. Roberto scrive: lite nella Lega, Tosi ormai da tempo un ex leghista che ha il solo obiettivo di far perdere il centrodestra anche in Veneto. Questi i vostri pareri su questa lite tra Salvini e Tosi. Ci sentiamo tra pochissimo, continuo a dirvi che il numero per i messaggi è 349-238-6666 e poi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, vedo arrivare i vostri messaggi agli sms al 349-238-6666, poi le altre riflessioni anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito di Tosi che potrebbe candidarsi in Veneto, qualcuno lo accusa di essere ormai un ex leghista che ha solo obiettivo di far perdere il centrodestra. Giovanni dice da Treviso, invito cordialmente Tosi a non rompere le palline. Poi un altro ascoltatore, scommettiamo che se Tosi si candida in Veneto poi darà buca al consiglio regionale optando per rimanere sindaco di Verona, le due cariche non sono compatibili. Beh, penso che lo sappia anche Tosi e poi se ha fatto questa possibile ipotesi saprà anche quali sono le conseguenze. Però prima di parlare con il sindaco di Verona Tosi vi riassumo, se avete acceso la radio in questo momento, ma ricordatevi che Effetto Notte inizia alle 21 precise, quelle che sono le notizie principali della giornata. Lotta all'evasione fiscale, firmato lo storico accordo tra Svizzera e Italia, cade così il segreto bancario, ma per alcuni c'è lo sconto. Grecia, Atene prende tempo, ne abbiamo parlato prima, slitta domani l'invio a Bruxelles della lista delle riforme per prolungare il piano di salvataggio. Processo Eternit e scontro tra la Cassazione, che deposita le motivazioni per l'annullamento della condanna a Smidaini, e il procuratore Guariniello, che chiede un nuovo processo. Tensione nella Lega Nord, Maroni e Salvini chiedono a Tosi di non mettere in difficoltà Zaia in vista delle regionali. L'epoca diventa ecologica con un maxi investimento da 1,7 miliardi per due data center in Europa alimentate da energie rinnovabili. E poi il calcio, questa sera ci sono i posticipi e sempre 0-0 tra il Inter e Cagliari, ero confusa col Napoli che invece ha vinto 2-0 contro il Sassuolo. Allora siamo sulla politica con una lite all'interno della Lega Nord, oppure tensione, come la vogliamo definire. Finora vi dicevo, abbiamo parlato delle tensioni, delle spaccature all'interno degli altri partiti. Qualcosa succede anche nella Lega tra Matteo Salvini, il segretario della Lega Nord, e il sindaco di Verona Tosi. Flavio Tosi, buonasera. Sì, buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori. Segretario della Lega Veneta anche. Tosi, lei mi sta diventando un po' disubbidiente ultimamente? No, io sono sempre stato coerente, che è diverso, all'interno della Lega per tutte le posizioni che nel tempo io ho espresso coerentemente, magari altri meno, rispetto alla secessione, rispetto al Sud, rispetto all'euro. Io ho sempre detto le stesse cose e mantenuto la stessa linea. Anche perché oggi Maroni ha detto, fra l'altro, fate meno interviste, lei invece ha concesso, e la ringrazio, mi ha concesso questa intervista. Senta, il problema qual è? Salvini si è un po' risentito perché lei ha detto che alla manifestazione che ci sarà a Roma, indetta da Salvini questo sabato, per riunire il centrodestra e tutte le forze che vogliono lottare contro il governo Renzi, le ha detto ci sarò se non ho degli impegni. E già Salvini ha cominciato a storcere il naso, ma evidentemente c'era già questo disagio nei suoi confronti, perché lei, Tosi, si è detto disponibile a candidarsi per le regionali che ci saranno in primavera al posto di Zaia in Veneto. È questo che ha fatto arrabbiare Salvini soprattutto? Ma guardi, è chiaro che quando uno vuole strumentalizzare, strumentalizza qualsiasi cosa venga fatta o detta. Io semplicemente ho detto quello che da sindaco il mio primo dovere è appunto fare l'amministratore della città, che sabato è una giornata non semplice, che però faccio il possibile per essere a Roma compatibilmente con gli impegni che ho da sindaco, niente di più e niente di meno. Dopodiché se c'è una posizione nei miei confronti da parte di qualcuno rispetto a quelle che sono le tensioni per le liste e per il governo del Veneto, lo statuto della Lega dice che ogni regione, in questo caso quindi la Lega Veneta, decide di per sé per le alleanze e per le liste. Se ci fosse stato rispetto e se ci fosse rispetto di questo principio, forse non ci sarebbero questo tipo di tensioni. Senta, quel cane lì gliel'ha mandato Salvini per caso lì in sottofondo? Sa che un po' di disturbo, di boicottaggio. Senta, però a lei sembra, a parte il cane, che ci siano delle ingerenze quindi dalla Lega Nazionale nei confronti della Lega Veneta, di cui lei è segretario, Tosi? Ma guardi, anche ai tempi di Umberto Bossi, io sono stato il primo, credo in assoluto, a confrontarmi con Umberto Bossi su certi temi come sulla secessione, e anzi diciamo, io non essendo secessionista e Bossi secessionista, come su altro, quando Bossi era ancora segretario, dopo in tanti, come succede spesso, prima sono tutti bossiani, poi sono tutti contro il Sergio Magico, ma vabbè, questo fa parte di uno degli sport nazionali preferiti, che è quello di salire sul carro del vincitore all'occorrenza. Rispetto a questo, io ho sempre mantenuto una linea coerente e rispetto quindi alle eventuali ingerenze, quando c'era Bossi le liste per le elezioni politiche, come anche per le regionali, venivano discusse in Veneto, e appena appena forse c'era un confronto con il federale, perché c'era il rispetto dell'autonomia del Veneto come della Lombardia. Cioè sarebbe inopportuno che chiunque dal Veneto si mettesse a sindacare sulle liste della Lombardia. E questo sia per il rispetto di quelle che sono l'organizzazione all'interno del movimento, ma soprattutto perché se sei federalista devi essere federalista prima di tutto all'interno, e quindi lasciare che ogni regione decida per se stessa, come fra l'altro è scritto sullo statuto. Salvini ha detto non è bello, a proposito del fatto che lei non ci sarà, forse se, insomma, a seconda dei suoi impegni alla manifestazione di sabato, ha detto non è bello che un dirigente pagato dica che non sa se verrà. E un ascoltatore, Stefano, in questo momento scrive: Tosi dice di essere pagato come sindaco e non dalla Lega, ma forse non si ricorda che sindaco, grazie solo esclusivamente alla Lega Nord, adesso non può fare tanto il prezioso. Così dice questo ascoltatore. Ma allora a questo ascoltatore rispondo che il sottoscritto è sindaco perché l'hanno eletto i veronesi con il 57% al primo turno. Di questo 57% l'11% è stato portato dalla Lega, Lega in quel momento devastata dagli scandali del Cerchio Magico, che e Verona fu il risultato, ormai da anni fra l'altro, il risultato più largo che fece in un comune capoluogo anche in quella tornata elettorale, perché appunto fu una disfatta per la Lega, perché appunto ci furono gli scandali della Tanzania, dei diamanti, eccetera. E dicevo, di quel 57% l'11% è da attribuire alla Lega, il restante 46% circa è da attribuire alla civica del sindaco e a una serie di altre civiche. Lo dico perché evidentemente, sicuramente in buona fede, quell'ascoltatore non sa i numeri che hanno portato all'elezione del sottoscritto. Senta, lei ha detto che ci sono con Salvini sicuramente delle distanze, fra queste per esempio ci sono anche le unioni civili a cui lei ha aperto di recente, le unioni civili da persone omosessuali. Ma diciamo, io ho una posizione rispetto all'euro, ma io ho sempre detto, anche quando ci trovavamo da Roberto Maroni nel cosiddetto patto del Pirellone, io gli dissi: guarda che sull'euro ho sempre mantenuto una linea che non è di essere favorevole all'euro, perché l'euro è una gabbia micidiale costruita da un sistema di poteri economico-finanziari in maniera molto rigida, che danneggia l'Italia perché le regole le ha fatte la Germania. Però è irrealistico dire usciamo dall'euro, è realistico dire ricontrattiamo i rapporti di forza all'interno dell'area euro-Unione Europea, che poi realmente è quello che sta succedendo in Grecia. Tsipras fa la campagna elettorale con i cannoni dicendo piegheremo le reni alla Merkel e usciremo dall'euro. Tsipras sta contrattando con l'Europa, rinegoziando i contenuti degli accordi, sapendo che non può fare altro che quello. E quindi questo, diciamo, è una posizione secondo me di concretezza, e lo stesso vale per le unioni civili, ovvero sia fermo restando che non si parla né di matrimoni né di adozioni. Quella è una questione che riguarda la Costituzione, la legge dello Stato, non riguarda i sindaci, tant'è che i sindaci che hanno trascritto matrimoni fra persone dello stesso hanno fatto una cosa illegale che gli è stata immediatamente cassata, perché né la legge né la Costituzione lo prevedono. Io dico che quando due persone vivono assieme e si vogliono bene, alcuni diritti che non è il matrimonio, che non sono le adozioni, che non è la casa popolare, che non è il posto negli asili nido, ma alcuni diritti gli devono essere riconosciuti, del tipo l'assistenza sociale sanitaria reciproca, assistenza patrimoniale reciproca, e con questo non ledono i diritti di nessun altro, non vanno a portare via i diritti di nessun altro, la famiglia cosiddetta tradizionale viene tutelata prima di tutto, ma ripeto, questo tipo di dignità, del tipo che se uno finisce in ospedale l'altro ha il diritto di stargli vicino e di essere informato, mi pare una forma di rispetto verso decine e decine di migliaia di cosiddette coppie di fatto, delle quali il 99% e oltre sono formate da un uomo e da una donna, e ce n'è una percentuale minima formate da persone dello stesso sesso. Ma nel momento in cui parli di unioni di fatto, evidentemente non parli di matrimoni, e quindi se sono due persone che si vogliono bene, sono due persone che si vogliono bene, punto. Tosi, abbiamo pochissimi secondi. Io intanto sento che il cane in sottofondo di Salvini ha smesso di abbaiare e probabilmente gli porge Salvini il calumet della pace, perché questa sera ospite di Quinta Colonna su Rete 4 ha detto Salvini: se si vuole si può sulla sicurezza. A Verona ad esempio, dove c'erano campi rom, non ci sono più, perché se un sindaco si fa rispettare la legge, se un sindaco fa rispettare la legge, le cose tornano alla normalità. Lancia il modello Verona sulla sicurezza. Fate pace in un secondo? Ma allora, quando c'è la volontà di trovare con buon senso una soluzione, le soluzioni si trovano. Penso che la speranza di tutti sia quella. Dopodiché si vede insomma le cose come evolvono nel tempo. Buona continuazione, Sindaco Tosi. A voi, buona serata, buon lavoro. Grazie, buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Abbiamo appena parlato della lite nella Lega con il sindaco di Verona Flavio Tosi. Fra le altre notizie, le più importanti, c'è questo accordo storico firmato tra Italia e Svizzera per lo stop al segreto bancario, poi slitta il piano greco a domani sulle riforme Eternit, la procura chiede un nuovo processo, ne parliamo proprio adesso. Oggi sono state depositate le motivazioni sulla sentenza Eternit, le motivazioni della Cassazione dello scorso 19 novembre, che aveva annullato al processo torinese per le morti d'amianto la condanna per l'imprenditore svizzero dell'amianto Smidaini, verdetto che ha tra l'altro annullato i risarcimenti alle vittime. La Cassazione spiega che quel processo era prescritto addirittura prima ancora del rinvio a giudizio del numero 1 di Eternit Smidaini. Però è arrivata una notizia proprio stasera che la Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per Smidaini l'accusa di omicidio volontario aggravato per la morte d'amianto tra il 1989 e il 2014 di 258 persone. E ne parliamo con Bruno Pesce. Buonasera Pesce. Buonasera, buonasera a voi. Che è coordinatore dell'associazione che riunisce i parenti delle vittime dell'amianto di Casal Monferrato. Qual è il vostro commento, Pesce? Cosa avete pensato su queste motivazioni e quello che ha deciso Guariniello, quello che insomma ha chiesto Guariniello? Sì, sulle motivazioni sostanzialmente abbiamo lo stesso giudizio, lo stesso parere che ci eravamo fatti quella sera famosa, quando la prima sezione della Cassazione annunciò la sentenza della prescrizione del reato di disastro. Chiaramente io penso che sia una sentenza che forse non ha tenuto conto dell'evoluzione dei tempi circa la natura che può avere un disastro oggi rispetto a quanto più o meno si poteva prevedere nel 1930, no? Quando in qualche modo si è richiamato questo tipo di reato. Ovviamente oggi ci sono progetti di legge per aggiornare, ma una interpretazione diversa della prescrizione era possibile, in quanto il disastro è ancora in corso. E adesso bisogna fare una lettura attenta, sono molte pagine, abbiamo appena avuto il tempo di dare una scorsa veloce, oltre che le note di agenzia, ma lì si insiste che gli effetti del disastro non contano, proprio rispetto al reato di disastro, gli effetti sono le morti che derivano da una condotta diciamo criminale o comunque da una condotta colposa, in questo caso della Eternit e dell'imputato. Quindi i morti non contano, contano le cause, ma le cause sono ancora in Eternit e loro hanno ancorato, la Cassazione ha ancorato la decorrenza della prescrizione dalla chiusura dello stabilimento, dicendo che poi si è, ha smesso l'Eternit di immettere fibre, no, amianto nell'ambiente oltre che nella fabbrica. Non sarebbe giusto che ci fosse una prescrizione, ma c'è e la Corte deve tenerne conto. Ma accidenti, io penso che non ci sarebbe nulla da eccepire allora a questo punto se con la chiusura della fabbrica fosse sparito l'amianto e fossero spariti anche quindi i mesotelioma. Ma non è così. Non è così. Senta, non è così. E del procuratore Guariniello che ha chiesto un nuovo processo, questo era già nell'aria, no? Mi sembra già la sentenza di annullamento. Era già nell'aria, l'indagine era sostanzialmente conclusa alcuni mesi fa. sicuramente questa volta sarà per omicidio, noi ci costituiremo parte civile, lo Stato, cioè il governo nella persona del primo ministro, del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, quando ci ha ricevuto due giorni dopo la sentenza, siamo stati ricevuti da tutte le autorità dello Stato, Presidente della Camera, Senato, Presidente di Commissione, Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche dal Presidente del Consiglio, il quale, sorpreso che non si sia costituito lo Stato nel precedente processo, quello di cui c'è le motivazioni della sentenza oggi della Cassazione, si è impegnato a costituirsi parte civile nel nuovo processo. Ci saremo anche noi e chiederemo al governo, come abbiamo già chiesto, già prima ancora della sentenza di primo grado, che dovrebbe svolgere un ruolo attivo, non solo costituirsi e ma un ruolo attivo vuol dire attivarsi con tutte le istituzioni che vantano un risarcimento, anteponendo davanti alle vittime e facendo valere il diritto in particolare di quest'ultimo e anche dello Stato, che ancora in questi giorni ha confermato 65 milioni a Casale per andare avanti speditamente con le bonifiche di questo disastro, 65 milioni ulteriori, ecco, che svolga un ruolo attivo in tutte le sedi penali e civili per ottenere giustizia per ottenere risarcimenti. Noi da soli come vittime non ce la facciamo. Chiarissimo, Bruno Pesce, tenete duro, insomma, ci riaggiorniamo allora. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Buonasera. E ci sono anche gli Oscar di cui parlare, segnati ieri a Los Angeles. Ha trionfato il film Birdman con 4 statuette, il miglior regista, miglior film, miglior sceneggiatura originale, fotografia. Rispettate le previsioni nei premi miglior attrice e miglior attore protagonista, Julianne Moore per Still Alice, Eddie Redmayne per La teoria del tutto, ma le previsioni, almeno tra le previsioni quella che ci stava più a cuore era quella che poi fortunatamente si è realizzata, all'Oscar per i migliori costumi a Milena Canonero, ma non è il primo Oscar, Marta Cagnola, è vero? No Roberta, è un poker, è il quarto, aveva già vinto per Barry Lyndon nel 76, poi aveva ottenuto il secondo Oscar con Momenti di Gloria, poi il terzo con Sofia Coppola, Maria Antonietta, quindi è arrivato il quarto con Wes Anderson, con The Grand Budapest Hotel. Lei ha ringraziato Wes Anderson sul palco, ha detto: sei una fonte di grande ispirazione, sei come un direttore d'orchestra, un compositore, se non fosse stato per te non ce l'avrei fatta in questa maniera. Un ringraziamento molto sobrio, perché lei è molto molto timida, pensa che alla fine della cerimonia i vincitori si prestano a un momento di incontro con la stampa e lei ha deciso di non andarci perché ha detto: sono molto timida, non mi piace parlare. Senti, questa è la grandezza. E invece un altro grande però italiano è stato dimenticato, no? Ci sono state delle polemiche. Sì, guarda, come molti ascoltatori sapranno, alla fine della cerimonia, uno dei momenti finali della cerimonia, prima delle statuette più pesanti, è quello dell'In Memoriam. È una piccola carrellata molto commovente di volti famosi o più o meno famosi che sono mancati durante l'anno. Sono attori, sono registi, produttori, ma anche persone che lavoravano dietro le quinte nel mondo del cinema. C'era Virnalisi, mancava Francesco Rosi. Ora però dall'America hanno spiegato che in realtà il numero delle persone che si possono ringraziare in quello spazio sono circa 25-30, e quindi queste le persone che non hanno trovato spazio in questa commemorazione sono su un'apposita galleria nel sito degli Oscar. Effettivamente Rosi c'è, come ad esempio c'è Joan Rivers, che era la grande fustigatrice dei costumi, e anche lei mancava, ecco. E questa è la spiegazione. Vabbè, ricordiamo noi Francesco Tosi. Grazie intanto Marta Cagnola. Ciao, a presto Marta. Grazie Roberta, a tra poco.